Allora, il secondo capitolo del trattato di Masechet Megillah torna a parlare delle norme specifiche riguardanti la lettura della Megillah e ci dice la seguente regola: Hakoreh et Megillah lemafrea, colui che legge la Megillah in ordine diverso, cioè legge prima qualcosa che è scritto più avanti nella Megillah e poi torna indietro e legge. Lemafrea letteralmente significa a ritroso. Però non è detto che lui legga l'ultimo versetto, poi il penultimo, poi il terzultimo, anche cambiando l'ordine in un'altra maniera. E così legge tutta la storia della Megillah, ma non nell'ordine cronologico, non nell'ordine in cui è stato esposto nella Megillah stessa. Lo Yatzah. Non esce l'obbligo della mitzvah di sentire la lettura della Megillah. Deve essere letta nell'ordine corretto. La Gemara parla della fonte di questa norma e dice che nella Megillah stessa è scritto Vehayamima elle, questi giorni, inteso il 14 di Adar, che è Purim, e il 15 di Adar, che è Purim Shushan, questi giorni dovranno essere ricordati e messi in atto secondo come è stato fatto la prima volta. E cioè, nella stessa maniera in cui il mettere in atto non si può anticipare il 15 al 14, deve essere per forza prima il 14 e poi il 15, e quindi anche il ricordo, e il ricordo è un riferimento alla lettura della Megillah, perché ci si ricorda la storia leggendo la Megillah e si ricorda la storia, allora anche quello deve essere fatto nel ordine cronologico corretto, così come è scritto. Quindi, se uno dovesse leggere la Megillah in maniera non or in ordine, non esce l'obbligo. Perché uno chiede: perché uno dovrebbe leggere la Megillah fuori dall'ordine? Che è matto, perché non può leggerla in maniera dritta? Può darsi che ci sia un caso in cui una persona, per esempio, arriva tardi al tempio, hanno già iniziato a leggere la Megillah, allora lui già la seconda metà l'ha sentita. Poi va nell'altro tempio dove iniziano più tardi e sente la prima metà, dice: ok, ho sentito tutta la Megillah. Non è uscito l'obbligo, perché ha sentito prima la seconda metà e poi la prima. Quindi questo può essere un caso più normale, che uno direbbe: ok, ho sentito tutta la Megillah, invece non ha fatto la mitzvah, deve risentirla tutta dall'inizio alla fine. Altro caso trattato ora nella Mishnah, che era A al Pe. Se uno legge la Megillah a memoria, cioè non legge dal testo scritto sulla pergamena, ma legge a memoria. Ok? Chi ha letto tante volte la Megillah ormai se la ricorda a memoria, allora potrebbe anche leggerla a memoria, non esce l'obbligo, come vedremo. Che è, primo caso, se lo legge a memoria, eh? Lunga. Sì. O anche se legge un capitolo a memoria, per esempio. Ah, certo. No? Kera'a Targum. Se uno la legge in traduzione aramaica, il Targum è un riferimento alla traduzione aramaica, inteso se lui non capisce quello che sta dicendo, cioè lui lo legge nel Targum ma non capisce l'aramaico, oppure Bechol Lashon, o in qualsiasi altra lingua che non è la lingua originale, Lashon HaKodesh, se lui la legge in qualsiasi altra lingua che non capisce. Se lui la legge in francese e non sa il francese, lo yatza, o la sente in francese e non capisce, non esce l'obbligo. Perché? Hayamim ha'ele nizkarim, questi giorni devono essere ricordati, non puoi ricordare senza capire. Unica eccezione è l'ebraico. Quando si legge nella lingua originale, nella Shona Kodesh, si esce l'obbligo anche se uno non dovesse sapere il significato delle parole. Come per la tefilah. Ok? Ma in un'altra lingua uno potrebbe sì uscire l'obbligo se capisce quello che si sta dicendo. Per la Megillah questo. In Sì, un'altra lingua. ma solo se capisce. Solo se Se non capisce, no. Aval corino tal alozot, e questo che la Mishnah adesso ha detto appena, ma la si legge in un'altra lingua per chi capisce quell'altra lingua, bela'az, nella loro lingua. Ve'aloez she'shama ashurit yatza, e chi parla un'altra lingua ma la sente in Lashon HaKodesh, ashurit è il modo che si scrive sul Sefer e sulla Megillah, sulla Mezuzah, si chiama ashurit, Questo esce l'obbligo anche se non dovesse capire la lingua di Lashon HaKodesh. Quindi se si legge nell'originale, tutti escono l'obbligo, chi capisce e chi non capisce. Qui non si può non ricordare interpretazione, non dico mistica, ma metaforica di questa Mishnah che abbiamo appena studiato, che ha detto il Baal Shem Tov. Il Baal Shem Tov ha detto, è scritto sulla Megillah, chiunque legge la Megillah a ritroso non esce l'obbligo. E qual è il senso? Abbiamo spiegato, però non in ordine. Prima anticipa ciò che viene posticipato, eccetera, il contrario. Il Baal Shem Tov ha detto, c'è un ulteriore significato nelle parole dei nostri maestri che si sono espressi in questa maniera nella Mishnah, e cioè chi legge la Megillah a ritroso, cioè chi legge la Megillah pensando che è una storia che è accaduta nel passato e oggi non è più rilevante, Tutti. lo Yatzah non esce l'obbligo. Cioè bisogna applicare a oggi e riconoscere che ciò che è avvenuto a Purim allora avviene di nuovo oggi e basta se noi approfondiamo, apriamo gli occhi e vediamo la mano di Hashem, possiamo apprezzare anche oggi ciò che è accaduto allora. Ma se noi leggiamo la Megillah, ma così come è valido per qualsiasi altro aspetto della Torah, come solamente un racconto storico, allora non siamo proprio entrati nell'ottica della mitzvah. Invece deve essere una cosa rilevante, deve essere una cosa che ha una ricaduta sul nostro comportamento, sulla nostra vita oggi e non solamente come se aprissi un libro di storia per informarti su degli accaduti passati. Questo diceva il Baal Shem Tov. Torniamo al nostro trattato. La Mishnah dice nel secondo paragrafo, quindi Mishnah Bet, seconda Mishnah del secondo capitolo qui. Altre norme sempre nella lettura. Kera'a Serugin. Se una persona avesse letto la Megillah con delle interruzioni, in maniera interrotta, quindi legge un po', poi fa qualcos'altro, legge qualcos'altro, poi torna a leggerla, eccetera. Oppure un mitnamnem, uno la legge ma addormentato, Addormentato, diciamo sonnato, assonnato, distratto. distratto, stanco, e può darsi che in mezzo si addormenta e poi si risveglia e rinizia. A biocco si dice. A biocco? Abbioccato. Esatto. Termine tecnico Allora, in questi due casi, la Mishnah dice Yatzah, esce l'obbligo della Megillah. Non deve tornare a rileggerla in maniera continua. Anche strano. Leggendola con interruzioni, Strano, sì. esce No, l'obbligo. a biocco è strano, perché quando dorme non capisce niente. Non mentre dorme, magari si addormenta, poi si risveglia, riprende da dove aveva lasciato, allora esce l'obbligo. Se una persona stava scrivendo una Megillah, perché è uno che è uno scriba, è uno sofer, e scriva, e quindi com'è che si scrive la Megillah? Bisogna avere un'altra Megillah già scritta davanti a sé e copiare da una sulla pergamena nuova, così che uno scrive. Uno non scrive dalla memoria, uno deve guardare quello che è scritto e riscrivere, E copiare. copiare. Allora, se la persona scrive, e mentre scrive, legge, Vayehi bimè, scrive Vayehi bimè, Achashverosh, scrive Achashverosh. Allora, visto che lui sta leggendo, se fosse questo accaduto il giorno di Purim, chiaramente stiamo parlando quando c'è l'obbligo della lettura, quindi il giorno di Purim, esce l'obbligo della lettura, perché sta anche leggendo. Fa delle interruzioni perché scrive, però abbiamo detto che anche se si legge interrotto si esce l'obbligo. Quindi i tre casi che adesso diciamo sono questi, lettura, scrittura, poi dorsha, no, questi seguenti, sono tre insieme, kotva, se l'avesse scritta nella maniera che ho appena descritto, o dorsha, la sta spiegando, sta insegnando la Megillah. Verso per verso, cito un verso, la leggo, cito un verso dalla Megillah, lo spiego, cito il prossimo verso, lo spiego, lo traduco, Quindi Dorsha la insegna, oppure un Magia, Magia vuol dire la controlla, nel senso di di controllare una Megillah se fosse valida o meno nella sua scrittura. Quindi una Megillah pronta, io adesso sono il controllore e devo vedere se ogni parola è stata scritta bene, e mentre vedo leggo, vai, sì, è scritto bene, bime, eccetera. In questi tre casi, yatsa, si esce l'obbligo della lettura della Megillah. Ok? Però c'è una condizione. La Mishnah dice im ki ven libo, allora yatsa, se ha avuto la kavanah, quindi esatto, l'intenzione di farlo anche per la mitzvah della lettura, allora certo, esce l'obbligo. Cioè se la fa solo con l'intenzione, per esempio, di controllare o di spiegare la, di spiegarla la Megillah, allora, e non è intenzionato anche a fare la mitzvah della lettura, allora non esce l'obbligo, deve essere intenzionato a fare la mitzvah. Ma in questi tre casi, se dovesse avere anche l'intenzione di dire ok, già che ci sto, lo faccio anche per la mitzvah, allora esce effettivamente l'obbligo della mitzvah. Veim lav, ma se non avesse, non si fosse tenuto a questa condizione, lo yatsa, non uscirebbe l'obbligo e dovrebbe rileggere appositamente per la mitzvah. Quindi queste finora sono delle regole che riguardano la modalità della lettura e l'intenzione della persona e la lingua che abbiamo visto, e appunto la modalità, se è interrotto, se è avanti e indietro, eccetera. Ora vediamo delle norme, sempre in questa Mishnah, riguardo alla scrittura della Megillah stessa, l'oggetto stesso della pergamena della Megillah. E la Mishnah dice così: Hayeta ketuva, se fosse la Megillah scritta, besam, sam è un tipo di colore, diciamo marrone, un tipo di marrone, perché è un colore che è tratto da della terra, da qualche elemento terreno. Oppure se fosse besikra, sikra è un colore rosso. Komos è una resina, è un colore, è un inchiostro che viene fatto dalla resina o dalla gomma degli alberi. Cancantom è un colore che viene fatto con degli elementi metallici, come che derivano dall'ottone, dal rame. Mm-hmm. Ok, quindi può avere un colore viola o diciamo un anche un tipo di marrone, no? Potrebbe essere. Comunque questo è l'elemento da cui deriva. Se fosse scritto in tutte queste maniere che abbiamo detto, e questo riguarda l'inchiostro, e ora invece vediamo qualcosa che riguarda il materiale sul quale è scritto. Al Hanniyar, Niyar è la carta, ma all'epoca della Mishnah la carta cosa si intendeva? Come il papiro, la carta a base di erba, ok? Oppure Vala Diftera, oppure della pergamena che ancora non si può chiamare pergamena perché non è lavorata quanto la pergamena normalmente è lavorata, quindi è di origine di pelle animale, ma non è ancora a livello di pergamena, è più grezza. Allora in questi casi che fosse scritta con quel tipo di inchiostro o su quel tipo di materiale, lo yatsa, non è una Megillah valida, la puoi usare per imparare il testo, ma se la vuoi leggere come la pergamena della Megillah e la leggi su questi inchiostri o su questi materiali, non si esce l'obbligo. Allora, okay? Che inchiostro? Che cosa invece serve? Deve essere scritta la Shona Kodesh con le lettere, con i caratteri che si chiamano Ashurit, che sono i caratteri che abbiamo sul Sefer. Al HaSefer, su una pergamena che nella Torah si chiama Sefer. Noi traduciamo Sefer con libro, ma libro non esisteva, libro come noi conosciamo libro. Sefer si intende la pergamena lavorata fino al punto in cui, come lo conosciamo sulla Mezuzah o sul Sefer, e quello si chiama Sefer, cioè Klaf, pergamena, ubidio, e con un inchiostro particolare fatto da delle erbe, e deve essere nero, ed è considerato un inchiostro che viene ben visto sulla pergamena, cioè si può leggere bene, ed è anche un inchiostro che rimane a lungo nel tempo, non si, diciamo, si consuma facilmente. Questa è una Megillah Kshera, una Megillah valida per la mitzvah, simile alla regola che è indicata per il Sefer. Sì? Non ho capito una cosa, scusa. Sì. queste sono tutte le restrizioni che si danno per far sì che sia valida, no? Ok. Però all'inizio abbiamo detto che se io la sento in un'altra lingua esco, d'obbligo se capisco. Se la sento in un'altra lingua, di conseguenza non è scritta in questa maniera, no? L'hanno presa da un'altra parte, il testo. Aspetta, aspetta. Cosa hanno preso da un'altra parte? Se mi dici che io esco d'obbligo se ascolto la Megillah in una lingua che capisco che non è l'ebraico. Ok, bravo. Allora, qui va solo fatta una nota. Che nel caso uno, ascolta, nel caso uno sente la Megillah, come abbiamo detto, che se tu capisci un'altra lingua la puoi anche sentire in un'altra lingua, in quel caso dovrebbe essere scritta su questo tipo di pergamena, con questo tipo di inchiostro, in quella lingua. Sì. In italiano, ma scritto con un inchiostro. Ah, no, pensavo non si poteva fare. Sull'inchiostro giusto e la pergamena giusta. Non pensavo si potesse fare. Sì, sì, sì. No, di fatto non si fa, sì. Perché abbiamo già studiato nell'altra lezione. Mi deve accertare che chi la sta leggendo, che io l'ascolto, la legge da una Megillah valida. Chiunque stia lì, si dà per scontato. Devo... No. Sì, si dà per scontato. Ha la responsabilità di non chiedere obbligo niente. Si dà per scontato, però se uno ha qualche dubbio deve controllare, certo. Certo. Come siete complicati. Ok. Ben Ir, prossima Mishnah, Mishnah Gimel 3. Noi abbiamo studiato nel primo capitolo che i due giorni di Purim, cioè il 14 di Adar e il 15 di Adar, sono entrambi festivi, quindi non si fanno elogi funebri, non si fissano giorni di digiuno in questi due giorni. Però solo uno di questi giorni è il giorno in cui si osservano le mitzvot di Purim, quindi la lettura della Megillah, l'invio di doni di cibo agli amici, i doni di denaro ai poveri e la seudah, il mishte, il banchetto di Purim. Questo avviene solamente in uno di questi due giorni. In quale dei due giorni? Dipende dove uno vive. In tutte le città normali si fanno le mitzvot di Purim il 14 di Adar, quindi il primo di questi due giorni, mentre nelle città che erano cinte da una muraglia fin dal tempo di Yoshua, momento in cui gli ebrei sono entrati per la prima volta in Eretz Israel con Giosuè, quelle città fanno osservano le mitzvot di Purim non il 14 ma il 15 di Adar. Ok? Questo abbiamo studiato. Perché? Perché ci sono due date. Perché Purim si festeggia il giorno in cui gli ebrei hanno riposato, si sono riposati dalle battaglie e i combattimenti che, di difesa che hanno fatto per proteggersi dal decreto di Haman, che chiunque volesse poteva fare quello che vuole agli ebrei. E allora in tutte le province dove c'erano gli ebrei hanno combattuto il 13 di Adar e il 14 hanno festeggiato la vittoria, quindi è rimasto il 14 il giorno della festa. Nella città capitale di Shushan, scritto sulla Megillah, che Esther aveva chiesto al re Ahasverosh una deroga, un altro giorno di difesa, perché ha detto ci sono ancora molti che ci vogliono male, ci vogliono fare del male, allora il re ha detto allora allunghiamo anche a domani. Quindi hanno combattuto anche il 14 nella città di Shushan e si sono riposato e hanno festeggiato il giorno 15. Allora i maestri volevano fare un ricordo per entrambe queste cose, sia per il primo che per il secondo giorno. E hanno detto tutte le città normali si tengono alla data che era più diffusa in tutte le città e quindi il 14. Volendo fare un ricordo anche per la seconda data, il miracolo di Shushan, che era la città Shushan, hanno voluto estendere la cosa anche ad altri luoghi, non solo alla città stessa di Shushan si dovrà festeggiare il 15, ma anche in altri posti per avere un ricordo nel tempo, perché poi Shushan non esiste più, no? Mm-hmm. Allora, cosa hanno fatto? Come, diciamo, creare una distinzione tra un luogo e l'altro? Hanno deciso di ricordare Eretz Israel, visto che gli ebrei in quel momento erano miracolati la storia di Purim, ma erano comunque in esilio, erano sotto l'impero babilonese, persiano e babilonese, quindi erano in esilio e come noi sempre facciamo, quando siamo in un momento di gioia, ricordiamo la distruzione di Gerusalemme. Sì. Allora anche loro volevano fare un segno, un monumento, diciamo così, dedicare a Eretz Israel, quindi hanno detto le città che hanno una muraglia, quindi erano già importanti città. Dal momento in cui noi siamo entrati in Eretz Israel, quindi dai tempi di Yoshua Bin Nun, queste sono le città in cui si festeggerà Purim il 15 di Adar. Si ricorderà il miracolo di Shushan, ma tenendosi a un ricordo e a un rispetto per Eretz Israel. In Israele lo festeggiano al di là delle mura? Solo in queste città, anche in Israele stessa. Quindi a Gerusalemme lo festeggiano il 15, esattamente. E a Tel Aviv il 14. Il 14, esattamente. Ok? Allora la domanda e il problema che nasce, soprattutto in Israele, per chi magari fa avanti e indietro tra per esempio Gerusalemme e Tel Aviv, il 14 nel Golan per il banchetto di Purim, ok, il Golan è esatto. Un luogo aperto, si fa. Ci sono altre città che sono in dubbio e fanno in due giorni, però se uno va tra Gerusalemme e Tel Aviv è sicuro che si fa il 14, Gerusalemme dentro le mura è sicuro che si fa il 15, quindi come si deve comportare? Come deve fare le mitzvot di Purim? Fa tutte e due. E di questo parla la prossima Mishnah. Il prossimo viaggio, ecco qui sì. Due domande. Ah, adesso lo facciamo. Due domande. Sì, numero uno. Se uno è in viaggio. Sì. Parte prima che entra Purim. Sì. Va bene. E non ha possibilità di leggere Megillah. Cioè, la può leggere da solo, ma su un testo che non è originale. E arriva, cioè, la Megillah la dovresti leggere nel luogo dove dormi. Allora, la risposta è no. No. Non è come Hanukkah. Ah, non è come. No, no. Allora, il problema è la lettura, non è il luogo. Il luogo può essere qualsiasi luogo. La risposta più, diciamo, dritta è non viaggiare di Purim se non hai un luogo dove sentire la Megillah o non c'è un Bet Chabad dove puoi andare a sentire la Megillah. Però, quindi, in altre parole, un ebreo che vuole seguire le mitzvot e Purim progetta i viaggi in base a questo. Però, se uno è forzato a fare un viaggio, eccetera, eccetera, teoricamente può leggere prima dall'11 di Adar. Abbiamo detto. Abbiamo parlato nella prima lezione, però solo in caso di forza maggiore. Non è una regola che puoi, diciamo, puoi fare così e puoi fare così. No, devi leggere la Megillah 14. Se ti trovi in una situazione che sei impossibilitato, allora puoi anticipare la lettura. Se no hai perso la lettura. Se no hai perso, sì. Comunque la leggi dal libro stampato. Almeno questo sì, questo lo devi fare senza Berakha, perché non è dalla pergamena, però devi fare se comunque. Se uno deve arrivare qua, è un mezzo obbligo. Va bene, al tempio, per leggere la Megillah sera di Purim, sì. E non fa tempo, poi la può leggere sul libro normale stampato. Sì, deve comunque fare quello, se no chiama il rabbino e dillo di viene a casa del rabbino e fate a leggere. Vabbè, mi aspetti, ti chiamo, faccio sempre. Che adesso arrivo. Ora vediamo la regola di andare da una città all'altra. Ben Ir, un cittadino di una città normale, cioè si intende che fanno Purim il 14. Shehalach Likrach, che va a una città importante, si intende quella cinta dalle mura, quindi dove si fa Purim il 15. Ok? Se tu sei di Tel Aviv e vai a Gerusalemme, oppure il contrario, Ben Krach Shehalach Lair, se tu sei di Gerusalemme e vai a Tel Aviv. Ok? La Mishnah dice così: Im atid la chazor lim komo, se intendi tornare al tuo luogo, ok? Quindi, uno di Tel Aviv, che quando la sera del 14 lui sta a Gerusalemme, però intende tornare a Tel Aviv il giorno dopo, non tra un mese, il giorno dopo. Vabbè, sì. 15. No, che il 14 stesso, la sera del 14 e la fine del 13, inizia il 14, okay, no? Okay. In teoria non potrebbe leggere nessuno. Allora lui no, lui deve leggere com'è la sua usanza del suo luogo, Korekim Mekomo. Esatto. Allora lui se la sera tra il 13 e il 14 sta a Gerusalemme, ma domani torna a Tel Aviv, deve leggere quella sera, anche se sta a Gerusalemme. Deve fare com'è il suo luogo, anche se lui non sta nel suo luogo. Vim Lav, se invece intende rimanere, domani tutto il giorno di Purim rimane, Kore Imahen, legge con quelli di Jerusalem. Ok? Anche perché perderebbe, giustamente. Sì. In realtà non che quando abbiamo detto se deve tornare al suo luogo, intendiamo anche la sera stessa, non solo il giorno dopo. Cioè lui è a Gerusalemme, lavora lì, ma la sera stessa torna a casa. Quindi quando è tramontato il sole, è già diventato il 14, lui stava a Gerusalemme, però con l'intenzione di tornare a casa dopo il lavoro, per esempio, deve leggere come Tel Aviv. Anche se quando è diventato Purim, tra virgolette, il 14 lui stava a Gerusalemme, dove lì in teoria non è Purim. Però seguiamo la sua intenzione, che intende tornare a casa. Se invece non intende quel giorno tornare a casa, allora fa come quelli di Gerusalemme. Ok? Claro. Ora la Mishnah dice un'altra cosa. Meheichan kore adam et amigilah v'yotze b'yedei chovato. È una domanda interessante. Da che punto della Megillah bisogna per forza leggere per uscire l'obbligo? Cosa significa? Se voi vedete la storia della Megillah, all'inizio parla di altre cose, non parla della, teoricamente, direttamente della storia di Purim, del miracolo di Purim. Parliamo del re Ahasverosh e del banchetto che fece per festeggiare il suo regno, e che ha ucciso la sua prima moglie, che ha cercato un'altra moglie. Tutto questo è la storia preliminare, ma non è la storia stessa. Allora la Mishnah si pone la domanda se davvero bisogna leggere tutto per entrare nella mitzvah, oppure si può leggere come minimo, non che vuole eliminare qualche punto della Megillah, ma come ho detto prima, se tu entri tardi al Tempio, dice vabbè, però ho sentito la maggior parte della storia, forse sono uscito l'obbligo, o no, forse devi sentire dall'inizio, anche se non sembra che fa parte della storia. Allora questa la Mishnah si pone la domanda, Meheichan, da che punto nella Megillah bisogna leggere per uscire l'obbligo come minimo? E qui troviamo tre opinioni tra i Chachamim. Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir dice, Kula, la devi leggere tutta, dall'inizio alla fine. Come detto prima. Che dice Rabbi Yehuda? Rabbi Yehuda Omer, amico tuo Rabbi Yehuda dice, Me Ish Yehudi, poco dopo l'inizio del secondo capitolo nella Megillah, si introduce la figura di Mordechai. E si dice Ish Yehudi haya be Shushan Habira. C'era un uomo ebreo a Shushan Habira, Ushmo Mordechai, che si chiamava Mordechai. E Rabbi Yehuda dice: è da qui come minimo che bisogna ascoltare o leggere la lettura della Megillah per uscire l'obbligo come minimo. Rabbi Yose Omer, e invece Rabbi Yose dice Meachara Devarimele. No, ancora un po' più avanti, l'inizio del terzo capitolo, dove si introduce la figura di Haman. Dove si dice, dopo che accadde tutto ciò, e cioè la morte di Vashti e il ritrovare la nuova regina, eccetera, a quel punto si introduce Haman e si dice, il re rese Haman una persona molto importante, gli diede tutto un onore, una posizione, e Haman arrivò al potere praticamente, e lì Haman iniziò a parlare con il re contro gli ebrei. Lì inizia la storia vera e propria, perché lì è stato decretato l'annientamento degli ebrei, eccetera. Allora da lì devi leggere. Tutte queste tre opinioni si basano sullo stesso versetto nella Megillah, che è scritto nella Megillah verso la fine, che Esther fece scrivere la storia, che effettivamente è la Megillah, ok? Esther fece scrivere la storia, la Megillah descrive cosa fece scrivere Esther, o scrisse, c'è scritto Vatichtov, letteralmente, scrisse Esther a Malkà, la regina Esther, un Mordechai a Yehudi, assieme a Mordechai, et kol tokef, tutta la forza, cioè tutta la storia dove si vede la forza di HaKadosh Baruch Hu, il potere e la grandezza di Hashem. E allora la forza, il potere, uno pensa al potere di Dio, il miracolo, no? Però Rabbi Meir dice no, anche la forza di Ahasverosh, che questo è l'inizio della Megillah. E allora devi leggere dall'inizio della Megillah. Mentre invece Rabbi Yehuda dice no, la forza di Mordechai, l'ebreo, quando si introduce Mordechai. E Rabbi Yose dice la forza di Haman, che è stata la fonte del problema. Quindi da quando si introduce Haman, da lì è il minimo. E quindi ognuno di loro si basa sullo stesso versetto interpretandolo in maniera diversa. La fine, la decisione alachica è come noi facciamo effettivamente. L'alachà è come Rabbi Meir, il primo citato, che bisogna leggerla per uscire l'obbligo, bisogna leggere tutta l'intera Megillah. Ok? Concludiamo qua. Continuiamo la prossima volta, se Dio vuole, alla Mishnah 4.